Incontri di Gianfranco Fabi. Note di Keep On Moving, del Soul to Soul, iniziamo l'incontro di questa sera e diciamo buonasera a Roberto Masi. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Roberto Masi è amministratore delegato di McDonald's Italia e gli chiediamo innanzitutto perché questa musica, perché questa canzone è americana probabilmente, quindi McDonald's è americana, è un omaggio al suo datore di lavoro. Diciamo quasi, ma più che al datore di lavoro ritorniamo all'89, l'anno in cui è stata lanciata e che mi stavo laureando negli Stati Uniti, quindi quando mi sono laureato, quindi quell'anno questa canzone era un po' in testa alle classifiche e quindi è un ricordo molto vivo che ho, un'esperienza fantastica e poi anche legata al fatto che quell'anno ho dovuto scegliere se rientrare in Italia o se accettare un posto di lavoro da McDonald's nell'89. Ah, già nell'89 avevo avuto un'offerta di lavoro da McDonald's negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, alla fine del mio percorso di laurea, esattamente. Però ho scelto di tornare in Italia. Corretto, ho scelto di tornare in Italia. Non da McDonald's. Non da McDonald's, perché all'epoca i miei genitori avevano un'azienda di famiglia, dei supermercati nella regione Marche, e quindi ho scelto di entrare in azienda. Ma dopo 20 anni eccomi qua da McDonald's. E quindi dopo 20 anni, dopo l'esperienza di lavoro in famiglia, come mai questa scelta di entrare in questo grande gruppo e come è entrato in McDonald's? Allora, la scelta è stata che poi il percorso, quindi sono trascorsi 20 anni, è evoluto. Come azienda di famiglia abbiamo deciso di venderla al gruppo Coop, oggi leader in Italia, e da quel momento ho iniziato, diciamo, la mia carriera professionale. Si è trovato disoccupato e quindi ha dovuto trovare un'occupazione e ha scelto quelli che si chiamano un Mac Job in pratica. Esattamente, anche se ci sono arrivato poi dopo, perché da McDonald's sono solo dall'anno 2007, quindi nel frattempo, dall'età di 28 anni, quando mi sono trovato senza posto di lavoro, ho fatto anche altre cose. Quindi... E come è entrato in McDonald's? Che cosa ha fatto la prima volta che ha superato la porta, appunto, di un ristorante o di un ufficio? Allora, sicuramente in questo caso, visto che parliamo di solo 6 anni fa, di un ufficio, perché sono entrato poi non dal ristorante ma già con la qualifica di amministratore delegato, quindi la prima cosa è stata quella di andare nei ristoranti, trascorrere circa un mese insieme ai ragazzi per capire veramente dove nasce questo mestiere che poi è vicino ai nostri clienti. Diciamo un po' una panoramica. McDonald's è la multinazionale per eccellenza, per definizione, la multinazionale globalizzata, è l'esempio della globalizzazione in fondo, l'immagine di una cosa uniforme in tutto il mondo. Una brevissima carta d'identità del gruppo anche a livello mondiale, cioè a livello mondiale McDonald's è una delle più grandi aziende del mondo. Sì, siamo sicuramente in quanto a occupazione, perché noi abbiamo circa 33.000 ristoranti in giro per il mondo, in 130 paesi, diamo lavoro a 1.800.000 persone in giro per il mondo, quindi veramente una dimensione molto grande. E per quanto riguarda invece la globalizzazione, è vero che siamo un'azienda presente in tutto il mondo, quindi da fuori sembriamo standardizzati, ma poi avrò la chance durante questa chiacchierata di spiegarle che facciamo tante cose per radicarci nel paese. Cioè il marchio resta uguale, però sotto questo marchio ci sono anche molte differenze. L'Italia come si colloca nella classifica delle McDonald's nazionali a livello mondiale? A livello mondiale siamo entrati nella top 10 proprio quest'anno, l'anno scorso con i risultati del 2013, quindi siamo il 10° paese e il 4° in Europa. E quindi anche come livello di crescita siete positivi in Italia? Sì, siamo positivi, e qui invece a livello mondiale siamo tra i primi, perché stiamo registrando tassi di crescita tra i più elevati all'interno dei 130 paesi di McDonald's, quindi stiamo andando molto bene in Italia. Quindi a cosa attribuisce questa crescita in un momento in fondo di difficoltà? Indubbiamente ci sono motivazioni aziendali, aver fatto gli investimenti giusti, ci sono forse anche motivazioni, diciamo così, sociali, si cerca di spendere un po' meno e da McDonald's si spende un po' meno. Ha perfettamente ragione dottor Fabi, nel che senso sono una serie di combinazioni di fattori. Uno sicuramente è non aver più approcciato il mercato italiano con una logica di standardizzazione globale, ma noi definiamo glocal, abbiamo saputo localizzarci, quindi adeguare la nostra formula appunto alle esigenze e alle abitudini degli italiani, e ovviamente anche un contesto sociale, un mercato in cui in Italia c'è molta frammentazione nel nostro settore della ristorazione, non esistono grandi catene, il mercato è per lo più da piccolo ristoratore, trattoria, pizzeria, e quindi pensiamo che anche grandi catene internazionali, se sanno adattarsi, hanno del potenziale sull'Italia. Ecco, in questo senso appunto lei parla della specificità di cercare un approccio tipico, nazionale, nostrano quasi in un certo senso. Quali sono i punti su cui puntate appunto per cercare di differenziarvi all'interno dell'uniformità del marchio? Bene, proverò in poche parole rapidamente a spiegarlo. Allora, abbiamo iniziato questo percorso 4-5 anni fa. Prima di tutto noi siamo un'azienda di ristorazione, quindi la base alimentare, quindi abbiamo dovuto ampliare e modificare la nostra offerta proprio per seguire le abitudini alimentari degli italiani. Sì, per esempio, a un certo punto la pasta asciutta ecco, sa che proprio l'anno scorso abbiamo lanciato la pasta asciutta estiva, base insalata, diciamo pasta fredda con Barilla, e quindi ecco, questo è un ultimo segnale. Poi abbiamo una vasta gamma di insalata, abbiamo la frutta nei nostri menù, abbiamo lanciato 4 anni fa delle caffetterie, oggi abbiamo oltre 200 caffetterie in Italia all'interno dei nostri ristoranti, che come vede sono tutte categorie merceologiche che gli italiani normalmente consumano. E in giro per il mondo essere un riferimento per la caffetteria da McDonald's è qualcosa che non si vede, in Italia oggi è una realtà. Ecco, quindi in questo vi differenziate anche dalla strategia, diciamo così, della casa madre? Sì, glielo confermo, però una differenziazione approvata, diciamo abbiamo il benestare, anzi sono estremamente contenti di questi adattamenti. Per esempio un altro discorso sono tutte l'ingredientistica. L'Italia è riconosciuta al mondo per avere una varietà di cibo e qualità unica. E quindi perché non rendere questo connubio di una multinazionale con gli ingredienti italiani? Quindi mi ricordo nel 2008 abbiamo lanciato dei panini al parmigiano reggiano, e addirittura il consorzio e i produttori non volevano servirci. Ho detto no, come? Perché ci chiedete questo prodotto? Questa contaminazione, eravamo tutti contro. Poi invece un produttore è stato lungimirante, che oggi esporta in tutto il mondo da noi, e siamo partiti, e da lì siamo entrati poi allo speck, prodotti locali, la salsiccia calabra, il provolone valpadano, e quindi abbiamo iniziato anche un arricchimento di prodotti locali nei nostri menu che ci hanno reso più vicini al gusto e alle abitudini. Come vi vedono dalla casa madre americana? Come vedono l'Italia? Come vedono anche McDonald's Italia? Allora, l'Italia all'estero non è vista come sistema Italia in piena salute. Abbiamo qualche problemino da risolvere. Per quanto riguarda McDonald's, 5-6 anni fa eravamo visti uguali, quindi non avevamo ancora trovato dei tassi di crescita importanti, addirittura avevano dei dubbi se continuare ad investire o no, avevano sospeso gli investimenti. Dal 2000-2007 non si investiva più sull'Italia come McDonald's. Poi abbiamo cominciato a dimostrare che adattando la formula le cose andavano bene. E ho impiegato 4 anni a convincerli che dovevano ritornare a investire in Italia. Adesso sono io che dico un attimo, calmiamoci, perché forse non sono pronto per soddisfare le vostre richieste di sviluppo. Quanti punti avete aperto nell'ultimo anno? Nell'ultimo anno 32, quest'anno saranno 35, e se le dico quanti me ne hanno chiesti per l'anno prossimo a casa madre, no, non ci crederebbe. Ecco, mi hanno chiesto 60 di aprire, ma ho detto non ci riesco per l'anno prossimo. Come vengono scelti? Cioè c'è ovviamente una strategia di marketing, una strategia di... Ecco, ma qual è il punto che vi ha dato più soddisfazione? Ma magari se può dirmelo anche quello che vi ha dato più delusione. Allora, sicuramente essere riconosciuti dopo un duro lavoro, perché c'era scetticismo su questa localizzazione del brand in Italia, quando gli americani ci hanno detto ok, adesso crediamo sull'Italia, diteci quanti milioni di euro avete bisogno per accelerare la crescita. E quindi questo è stato un riconoscimento a tanti anni di lavoro, e dire ok, finalmente l'azionista è convinto che l'Italia è un paese su quale puntare. Delusioni e frustrazioni sono state all'inizio, perché nessuno credeva questo. Normalmente quando le cose non vanno si vuole ancora più standardizzare, e quindi ho dovuto remare contro parecchi colleghi che non credevano in questo. Comunque ecco, è una presenza uniforme su tutto il paese. Sì, presenza uniforme. Oggi per storicità forse abbiamo un po' più di ristoranti nel centro-nord, ma con il nostro piano di aperture stiamo compensando, oggi apriamo un po' più al centro-sud. Ecco, McDonald's è anche vista come un grande datore di lavoro, una grande opportunità per i giovani, abbiamo parlato prima dei Mac Job, che sono visti anche come una forma di lavoro, forse con qualche aspetto un po' critico. Incontri. Ancora con le note di Keep on Moving, ancora con questa voglia di muoversi, incontriamo, proseguiamo il nostro incontro di questa sera con Roberto Masi, amministratore delegato di McDonald's Italia. Abbiamo parlato della prima parte della crescita molto forte che ha avuto McDonald's Italia. Quanti ristoranti ha creato negli ultimi anni? Negli ultimi tre anni 100. 100 ristoranti nuovi, e ogni ristorante quante persone occupa? Circa 30. 30 persone fisse? Fisse. Ecco. Il 90% sono a tempo indeterminato, quindi detto in gergo italiano a tempo fisso. Quello che è uno dei punti che appunto si voleva toccare, perché come dicevamo poi alla fine della prima parte è entrato un po' nell'uso corrente parlare di Max Job come un lavoro precario, un lavoro di poca qualifica, un lavoro anche poco pagato, è così? No, assolutamente diciamo di no, purtroppo questa etichetta ce la portiamo da decenni. E la verità è questa, poi lascio i radioascoltatori a farsi la propria idea. Noi, come le dicevo, abbiamo oggi in Italia oltre 17.000 lavoratori, collaboratori che operano con noi. Il 90% di loro hanno un contratto a tempo indeterminato, questo ci tengo a sottolinearlo. Quindi la precarietà da noi, da questo punto di vista, non esiste se non per il 10%. Poi si confonde purtroppo il lavoro part-time come precario. Noi invece è vero che la maggioranza, circa 70% dei nostri lavoratori, hanno un contratto a tempo part-time. Parziale. Quindi non 40 ore settimanali, certo, le canoniche, ma tra le 20 e le 30 ore settimanali. E quindi un salario proporzionato. Proporzionato, esattamente. Quindi per quanto riguarda salario, sono quello del contratto del turismo e del commercio italiano, quindi lei va in qualsiasi bar, ristorazione, hotel, abbiamo lo stesso salario, quindi i nostri lavoratori, solo che è riproporzionata a part-time. A questo punto però dobbiamo parlare perché facciamo grand'uso del part-time. Per mancanza di flessibilità nel mondo del lavoro in Italia, perché il nostro lavoro si concentra a pranzo e a cena, i nostri clienti, ma gli certo, italiani mangiano da mezzogiorno alle 2, dalle 7 alle 9 di sera, e quindi noi facciamo i picchi su queste due fasce orarie e dobbiamo coprire, pensi che il nostro ristorante medio, noi alle ore di pranzo e cena abbiamo bisogno anche di 35-40 persone in turno, il pomeriggio due basterebbero. Quindi come coprire queste fisiologia del nostro mestiere, abbiamo bisogno di part time, perché se assumessimo tutti full time il pomeriggio avremmo 40 persone nei nostri ristoranti che non sapremo che non sanno cosa fare, si annoiano infatti, peraltro. Ecco, in questa prospettiva voi assumete molte persone, il vostro ufficio del personale penso che sia occupato invece a tempo pieno ad assumere le persone, dato che avete delle aperture di ristoranti così frequenti. Come vi organizzate per trovare le persone giuste per il posto giusto? Allora, in questo momento noi stiamo assumendo, quindi abbiamo bisogno di 1000 nuovi ragazzi e ragazze principalmente da assumere per l'anno 2014, lo stesso si è verificato nel 2013, e per dire l'anno scorso come ci siamo organizzati. Abbiamo deciso anche di dare visibilità e opportunità a tutti il nostro lavoro, quindi dove apriamo, quindi consideri che l'anno scorso e stiamo aprendo da Gela a Rovereto, ad Aosta, in tutta Italia, abbiamo allestito un camper mobile, e l'abbiamo chiamato Mac Job Tour, in cui tre mesi prima dell'apertura andiamo nelle piazze delle cittadine dove apriamo e iniziamo a dire: signori, siamo qua, abbiamo bisogno tra le 30 e 40 giovani. Quindi c'è un primo screening via web, internet, e poi l'anno scorso abbiamo ricevuto nel 2013 per 1000 posti di lavoro 18.000 curriculum e abbiamo incontrato e intervistato 2.500 persone per assumerne 1000. Ecco, voi assumete 1000 e penso che tra questi curriculum ci saranno molti anche di laureati e diplomati che si offrono per posti che peraltro all'inizio non sono molto qualificati. Corretto. Ecco, in questa prospettiva, entrando in McDonald's, anche per il classico lavoro che è quello di girare gli hamburger, si hanno prospettive di carriera? Sì, prospettive di carriera se ne hanno, lei consideri che tutte le persone che abbiamo in sede, il 70% sono persone, ragazzi che hanno iniziato in McDonald's a cuocere patate fritte o preparare hamburger, quindi come un po' le logiche di tutte le multinazionali si premia anche la crescita interna. Le prospettive di questi ragazzi, diciamo che oggi noi stiamo assistendo, ahimè, ai problemi dell'Italia, quindi problemi sociali. E le dico solo 4-5 anni fa, al nord la maggioranza delle assunzioni erano extracomunitari, persone giovani, e noi diamo anche molto lavoro a studenti in corso universitario, quindi che si pagano gli studi il fine settimana, certo, part time. Ahimè, in 4 anni sono scomparsi gli extracomunitari dalle nostre assunzioni, prenda questo con le debite proporzioni, sono molti più italiani, nord e sud, grado di istruzione molto più elevato, quindi molti più laureati che non solo diplomati o senza neanche diploma, e persone di età medio-alta, quindi persone che sono uscite dal mondo del lavoro e pur di ricollocarsi accetterebbero anche un lavoro part-time. Quindi siamo un po' il termometro o il barometro sociale di quello che sta succedendo in Italia, e le posso dire che dobbiamo intervenire come Italia, perché si vede proprio che la crisi è arrivata. Ecco, si parla molto in questi giorni, in queste settimane, di nuove misure per il lavoro, questo Jobs Act che è stato presentato in grandi linee, si sta discutendo. Ecco, come vede le prospettive dell'occupazione in Italia? Che cosa si può fare per rendere più facile l'accesso del mondo del lavoro ai giovani? Allora, se non diamo, o politici, noi tutti, operatori economici, se non diamo uno shock al mondo del lavoro, io penso che ormai abbiamo abbastanza esperienza sugli ultimi anni che nulla si muoverà e non ci sono segnali di miglioramento. Quindi penso che il mercato del lavoro abbia veramente bisogno di uno shock in Italia, e che non è solo l'articolo 18, perché poi spesso ci accendiamo per l'articolo 18, ma è proprio per rifavorire le aziende a prendersi rischi, perché in questo momento le aziende non sanno quando finirà la crisi, vengono da 4-5 anni di crisi, quindi si stanno un po', come posso dire, proteggendo, sono prudenti, prima di assumere un nuovo impiegato ci pensano 10 volte. Se noi rendessimo un po' il mercato del lavoro in entrata, ho sentito parlare non di articolo 18 ma del periodo di prova prolungato a 3 anni, penso che le aziende si prenderebbero un po' più rischi, quindi faciliterebbero il mondo del lavoro e soprattutto in entrata, e quindi ben venga che si parli di innovazione sul mondo del lavoro, dei Job Act, ho sentito facilitazione al mondo a chi assume, ben venga tutto. Ecco, questo. Uno dei temi fondamentali è quello dell'apprendistato, collegato a questo anche quello della formazione professionale. Voi fate formazione professionale nella vostra azienda? Sì, tanta, ed è un po' una caratteristica poi delle multinazionali, soprattutto anglosassone, di investire molto sulla formazione delle persone interne, proprio perché poi si vuol favorire la crescita interna, quindi c'è una logica. E noi, io più volte ho proposto a vari sottosegretari del governo, degli ultimi governi, perché ahimè cambiano spesso purtroppo, di prendere delle esperienze di paesi a noi vicini, quindi sono Francia, Inghilterra, cose che noi facciamo, i miei colleghi fanno, di poter valorizzare la formazione che le aziende, non solo multinazionali, fanno per equiparare formazioni aziendali sotto il controllo ovviamente degli enti statali a istruzione pubblica, perché molte persone, spesso parliamo di laureati, ma non tutti possono laurearsi, certo. Siamo il termometro, persone che arrivano che vorrebbero studiare ma non possono. Se nel percorso aziendale riuscissero poi a recuperare tramite la formazione interna dei titoli di studio riconosciuti a livello nazionale, questo genererebbe un volano a costo zero per le casse statali, perché le aziende sarebbero ancora più incentivate a investire nei propri, perché avrebbero un vantaggio competitivo. Senza dimenticare che ogni lavoro ha la sua dignità, bisogna rispettare la dignità di ogni lavoro, e soprattutto ogni lavoro va fatto bene, anche il lavoro che può sembrare più umile, però se fatto bene può dare dignità alla persona e può dare soddisfazione alla persona. Che cosa le dà più soddisfazione nel suo lavoro? E sicuramente lavorare in un'azienda di un'età media di 28 anni, 17 per mila persone con età media di 28 anni, che c'è un'energia da 28enni, cosa che io ormai ho dimenticato. Beh, non da molto, perché direi abbastanza, ti dà un ventennio almeno. Beh, se si è laureato nell'89 possiamo fare i conti. Perfetto, ecco. Siamo prossimi ai 50, intorno ai 48. E indubbiamente questa energia, vedere questi giovani, e quindi quando sento parlare di bamboccioni, queste cose qui, no, abbiamo dei giovani che hanno voglia di fare, che si mettono in gioco, forse gli dobbiamo creare un po' più di speranza, di ottimismo. Dare più fiducia anche ai giovani, dare più fiducia, dare più responsabilità, più possibilità operative. Ecco, rispetto all'esperienza americana, lei conosce, sicuramente continuato a conoscere gli Stati Uniti, che cosa differenzia di più l'America dall'Italia? Sono un po' più pragmatici, rapidi, un senso civico decisamente più alto, un senso della nazione, e quindi pur nelle loro difficoltà poi hanno un 20% del loro cervello funziona, non pensare al singolo ma anche alla collettività. Purtroppo in Italia il 99,9% del nostro tempo pensiamo a noi stessi e poi siamo un po' egoisti. Siamo un po' egoisti come italiani, siamo un po' individualisti come italiani. Forse recuperare anche una certa dimensione così sociale, comunitaria, può essere interessante. Forse può aiutare anche a trovarsi a mangiare un panino insieme. Indubbiamente. Ecco, indubbiamente. In questa prospettiva c'è qualche iniziativa che differenzia appunto anche sotto il profilo, abbiamo parlato del cibo, ma anche sotto il profilo dell'estetica, dell'accoglienza McDonald's Italia rispetto alle altre realtà? Sì, sicuramente questo fa parte un po' del percorso strategico che le dicevo per adeguarci all'Italia, che è stato in Italia, ovviamente da italiano lo conosco bene, ho dovuto convincere i nostri azionisti che per noi il mangiare, sedersi, pranzo e cena è un qualche cosa, un rito, un culto, è un modo di socializzare. Quindi non è che ci sediamo solo per nutrirci, cosa che fanno gli americani. Loro il senso del mangiare è nutrirsi e poi il resto si fa. Magari un po' troppo, perché poi dopo. Ok, per noi è un modo di socializzare, di stare assieme, chiacchierare, e quindi far questo non si può fare, non si poteva fare in un ristorante spartano, a poco investimento, che era l'inizio di McDonald's, tutto fast. Quindi abbiamo dovuto mantenere il fast a monte, la supply chain, e servire il cliente in tempi rapidi, ma l'esperienza cliente abbiamo dovuto allargare i nostri ristoranti, rendere più confortevoli, più moderni. Siamo stati la prima azienda in Italia a lanciare il wifi gratuito nel 2009. E quindi le caffetterie, e quindi oggi stiamo ammodernando i nostri ristoranti per renderli più accoglienti, un modo per un socializzare. Un po' più italiani, un po' valorizzando un made in Italy che è anche fatto appunto sulla cordialità, sui rapporti, un po' sull'armonia. Ecco, guardiamo appunto con questa prospettiva, sperando che così come cresce un'azienda come la vostra, possa crescere anche il paese, possa comunque ritrovare quella voglia di fare che c'è e che va, chiede solo di poter esprimersi. Ne siamo convinti e dobbiamo assolutamente provare. Grazie a Roberto Masi, amministratore delegato di McDonald's Italia, di essere stato con noi questa sera. Ringrazio anche Filippo Reggi in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona serata.